Buonasera a tutti e benvenuti alla prima, anzi pre-prima puntata del nostro nuovo podcast di Geek Cookies. Stasera vogliamo fare una specie di prova generale in cui ci conosciamo un po' gli strumenti di registrazione e diventiamo un po' protagonisti del podcast per la prima volta molti di noi. Quindi io sono il vostro host di questa sera, presentatore, e vi introdurrò i nostri colleghi e beniamati collaboratori del podcast. Quindi andiamo ad incominciare. Probabilmente non sapete di cosa stiamo parlando perché è la prima volta che scaricate questo podcast. Bene, abbiamo cominciato con un'idea di fare un podcast che parlasse di tecnologia, come se non ce ne fossero già abbastanza, però noi volevamo dare un po' più un accento alla parte più geek e nerd, quindi noi approfondiremo vari argomenti che ci interessano e che pensiamo possano interessare anche i nostri ascoltatori e accoglieremo con piacere anche domande, suggerimenti e nuove idee. Quindi noi cominceremo un po' con le idee che abbiamo in testa, cercheremo di migliorarci sperando in un vostro aiuto. Quindi adesso cominciamo con le presentazioni. Il primo dei collaboratori che sono qui con noi in sala di regia distribuita questa sera è Francesco. Buonasera. Buonasera a tutti. Sì, Buonasera. Senti Francesco, vuoi un po' introdurci chi sei, cosa fai, perché sei qui? allora, diciamo che parto dal perché sono qui. Sono qui perché ascolto un sacco di podcast e ho pensato che poteva essere una cosa carina provare a mettersi in gioco e oltre che fare il soggetto passivo, anche cercare di mettere in campo la mia voce. Sono un geek da vecchia data, da piccolo smontavo tutto quello che era smontabile. Mi sono fatto comprare il primo PC alla fine della terza media e prima della prima superiore l'avevo già smontato 3 volte. Ottimo. E quindi sapevo già come era fatto. Ero un vecchio 286 con ben 2 mega di RAM. Ora andiamo agli albori dell'informatica, quando la RAM si calcolava in kilobyte e non in gigabyte come ora. E da quel momento ho cominciato a mettere mani un po' sui computer, anche se ho studiato da elettronico, quindi ho la passione dell'informatica e la cultura dell'elettronica. E è finito col fatto che faccio il sistemista, metto a posto server reti e per passione metto le mani in schede, saldo, disfo, faccio circuiti e queste cose qua. Essenzialmente mi piace l'idea di questo podcast perché si parlerà di cose un po' più profonde della solita notizia. Non è uscita la nuova scheda di Arduino, ma questo sensore si usa in questo modo per far funzionare Arduino. L'idea è un po' quella. Ottimo, quindi introdurremo anche a tutti, diciamo che cercheremo anche di essere un po' più generici, nel senso non vogliamo essere indirizzati solo ai super nerd come noi, ma anche a chi non ne capisce, quindi potremo introdurre cos'è Arduino, cos'è alte schede, eccetera. Ok? Diciamo che potremmo persino cioè cominciare in questo modo e far diventare dei poco nerd, delle persone molto nerd che ci chiedano poi: senti, ma come si fa per smontare questa cosa qua e rimontarla in modo che faccia quello che voglio fare io? Non Ottimo. sarebbe male. Quindi cercheremo di migliorare il mondo secondo il nostro punto di vista, diciamo. Il mondo della Della nerditudine, sì. nerdaggine. Ok. Perfetto, ti ringrazio. E a questo punto introduciamo il nostro secondo coautore, coaiutante, il buon Massimiliano. Buonasera. Salve. Buonasera, buonasera a tutti. Prego, facci una panoramica anche tu su chi sei, cosa vuoi, che fai. Beh, allora io sono un ingegnere informatico, lavoro nel campo dello sviluppo del software da più di 10 anni e beh, sono chiamiamolo sempre, campo dello sviluppo del software da tanti anni, come appassionato e come smanettone, diciamo così. In pratica ho iniziato sì da piccolo con i bei vecchi vetusti VIC-20, Commodore 64, la mitica Amiga e quant'altro, e da lì non ho mai smesso. Ovviamente, siccome che la passione non era abbastanza, si rende la passione un lavoro, e quindi ecco perché sono un ingegnere informatico, che lavora sviluppando software. Nel tempo libero mi piace continuare questa passione, quindi proprio si fa quasi 24 ore di sviluppo al giorno e sviluppo app per Android che pubblico nel Play Store. Di cui parleremo poi in futuro, nelle prossime puntate, ovviamente. Se vuoi, Volentieri, fare un po' di volentieri. pubblicità. Sì, voglio, voglio. Certamente, magari diamo qualche codice promozionale. Ottimo. Per il resto sono qui perché diciamo, completo un attimino i due colleghi e spero di poter parlare di qualcosa di molto interessante qui con voi e interessante per gli ascoltatori. Sicuramente, sicuramente. Penso che ci competiamo in maniera abbastanza buona, quindi abbiamo diversi ambiti. Se permettete, mi introduco anche un attimo perché vi ho fatto parlare, ho parlato di voi e nessuno sa chi sono io. Vabbè, io sono Mario, come ho detto all'inizio, e fondamentalmente sono molto diverso dagli altri. Sono un fisico di formazione, però ho sempre avuto la passione sia per l'informatica, sin da piccolissimo. Il mio primo computer è stato un Apple II. Appena uscito, quindi parliamo di metà anni 80, forse anche prima, e da allora ho sempre avuto il bisogno di capire come funzionano le cose. Quindi anche l'hacking elettronico è una cosa che io faccio diciamo per passione, però non è una mia competenza specifica, non ho un po' studiato perché mi piace, non ho letto in giro. Quindi tutte le varie cose, Arduini vari, giocare in casa, smontare, attaccare, cambiare cose. Quindi è una passione che mi muove dentro. E per questo ho sempre ascoltato anche io molti podcast. Ho avuto quest'idea un giorno di, in mancanza di una cosa specifica come quella che abbiamo noi in testa, di tirar su un podcast che parlasse nel dettaglio delle cose che mi piacciono. Quindi cercare di fare quello che io vorrei sentire in giro un po' di più. Quindi speriamo di dare un contributo al mondo della passione, possiamo chiamarla, della nerditudine. Un po' più approfondito. Ok, direi che questo è più o meno chi siamo. Se qualcuno di voi ha qualche idea, qualcosa da dire, promesse, robe del genere. Se no, beh, direi che per la prima puntata forse già siamo abbastanza a buon punto. Beh, a quanto siamo già, giusto per capire. Siamo giù in 10 minuti, è giusto? Non vogliamo cominciare a annoiare gli ascoltatori la prima volta, quindi. Ah no, pensavo di fare una puntata da almeno 2 ore e mezza, 3 nella Ah, presentazione di ok. noi, del Senti, podcast, eccetera. ok, vado a prendere un altro paio di hard disk intanto che parlate così riesco a. Perché mi esploderebbe tutto. Inizio a Vabbè, dire dai. il titolo molto lentamente, così almeno Esatto. un 20 minuti la copriamo già. No, bisognerebbe dire che il titolo vero non è proprio Geek Cookies, perché Geek Cookies è il titolo per gli Esatto, amici. è il soprannome. Sì, infatti, perché il titolo vero, diciamo che occuperebbe altri 10 minuti di trasmissione solo per enunciarlo. Dico bene. Esatto, sì. Lo metteremo nelle note dell'episodio, giusto per chi vuole proprio andare a capire quel nome vero, però diciamo che Geek Cookies è un ottimo modo, anche se ne volete parlare agli amici, volete comunicare di questa figata nuova, è abbastanza comodo. Sappiate che i cookies non sono solo quelle cose che vengono lasciate dal browser, eh? In ogni Esatto. puntata ci sarà il modo per insegnarvi a fare anche dei biscotti, quindi Esatto. sono cookies veri Esatto, con i che quali potete imbrattare le cucine, sporcare le pentole, farli bruciare nel forno oppure Esatto. anche riuscirci e farli mangiare. E funziona con tutti i browser, con tutto, non c'è problema. Bravo, Beh, il forno brucia qualunque browser. anzi, quello che vuoi, esatto. Non c'è nessun problema. Ottimo. Senti, che dire? Possiamo spendere due parole? Allora, noi siamo, diciamo, appena nati, ma non siamo neanche ancora nati, cioè questa è una pre-zero puntata iniziale, però dopo daremo anche un po' di indicazioni su dove andare a trovare qualcosa di noi, stiamo mettendo su un po' di infrastruttura tra blog, qualche contatto di social network, diciamo che l'idea era di cominciare molto bassi e poi crescere mano a mano, però dato che siamo tutti dei nerd, siamo fatti prendere la mano, abbiamo già 1.000 account di tutto, quindi Siamo riusciti a fare tutti gli account su tutti i social esatto, possibili già, bravo, e quindi anche non tra l'altro social, tutto. Tutti i versi, perché non abbiamo trovato il nome che fosse libero su tutti i social. Vabbè, quindi sarà anche un po' un'avventura per chi vuole seguirci completamente, sarà un po' di un nascondino, cercare dove ci nascondiamo ogni volta. Il vero nerd non si fa intimorire da queste cose. No, anzi è stimolato dalla sfida, quella è la cosa bella. Quindi l'account su Tumblr sarà PQZ92, esatto. Asterisco cancelletto. E poi facciamo un ROT13 in modo giusto per essere sicuri che nessuno riesce a capirlo. E lo criptiamo, il nome. Ottimo. E potremmo anche metterci dentro il deep web, così sì, non ci trova più nessuno, non e parliamo solo tra di noi. Dalla prossima volta ci troverete solo con... con Tor. Su Tor, sì, esatto. Dalla nostra pagina. Non è una cattiva idea, possiamo provarlo a fare. Dai. E così per avere una quantità media di ascoltatori pari a 1,5. Esatto, però fedeli. E saranno, fedelissimi, sì, tutti sì, probabilmente terroristi, gente strana, vabbè così. Ok, dai. Quindi direi che più o meno, oltre a far capire chi siamo, anche abbiamo dato un'idea del... come dell'impronta della discussione che vorremmo avere, quindi una cosa anche abbastanza un po' informale, non troppo precisa e metodica. Cioè, l'importante è, secondo me, è divertirci noi e dare un'idea anche alle persone della passione che abbiamo in quello che facciamo, quindi non solo dare una roba molto, come dire, sterile e parlare delle cose in maniera distaccata, ecco. Ma direi che se si sente che c'è passione, la passione poi si riesce a passarla nell'ascoltatore e magari contribuiremo al fatto che si scaricheranno più software, ci sarà più Tor che girerà e sarà tutta colpa nostra. Quindi ci faremo sponsorizzare da Tor la prossima volta, da Deep Web. Metteremo il direi nostro... Tor, Arduino, sì, poi sì, sì. Potremmo mettere un bel Visual Studio o qualche altro tool di sviluppo poco impegnativo. Sì, robine piccole. Sì, e pensare che stiamo facendo tutto con roba gratis, tra l'altro, adesso. Tutto questo, il nostro podcast è assolutamente free per adesso, poi vediamo come si svilupperà. Sì, diciamo che l'obiettivo è quello di sfruttare per quanto possibile la parte gratis dell'internet, anche se sappiamo che se non paghi, esatto, usano te come prodotto. Vedremo. Noi cercheremo di usare noi loro. Esatto. Dai. Vabbè, il problema è, come abbiamo visto già, se non paghi hai cose, ma non sono i livelli professionali che altra gente utilizza, quindi non... Diciamo, per adesso rimaniamo... Come diciamo, rustici, cerchiamo sì, di... Sì, mi sembra una buona definizione. Quando poi i sistemi gratuiti ci diranno, stai consumando un po' troppa banda, allora penseremo a crescere un po'. Sì, per adesso penso vada benissimo, quindi le nostre soluzioni sembrano funzionanti per adesso. Poi vedremo se abbiamo un feedback da tutti gli altri. Quindi se c'è del feedback datecelo, vi daremo tutte le informazioni, la posta, Twitter, sì, sì. Tutto il possibile per contattarci in modo che ci possiate dire una cosa interessante, una cosa che non mi interessa assolutamente per niente, noi ci regoleremo di conseguenza. Ok. Beh, direi che come prima puntata siamo già belli lanciati. Caro bene, Max, bene. C'hai qualche cosa da aggiungere? Abbiamo perso. Sì? No, non ho capito il nome. Massimiliano, scusa. No, io volevo fare soltanto un inciso, se mi permettete. Prego. E vorrei dire a tutti che, benché il nome del podcast condivida una parte delle sue lettere, noi non siamo il podcast Geek Reflection, noi siamo molto migliori. Così ci facciamo un pochino di nemici, anche se in realtà sono degli amici, sì, e scherziamo. Sì, siamo praticamente quasi tutti toscani e quindi staranno sicuramente al gioco. E niente, ora a parte questa stupidata per fare una piccola battuta, spero di vedere del movimento a breve a seguito delle prime puntate e magari chissà... i ragazzi di Geek Reflection si presteranno a fare una puntata con noi e facciamo, non so, un argomento tutti insieme, una puntata, un crossover, un qualcosa di questo tipo. Sarebbe simpatico. Bellissima idea, guarda. Infatti i ragazzi di Geek Reflection, che salutiamo, Beh, spero che penso che questa roba potrebbe molto interessargli, come, almeno come approccio. Poi ovviamente saremo aperti a tutte le critiche, consigli, dato che loro sono più esperti di noi, lo fanno da molto più tempo, se possono darci, non so, un contributo in cambiare qualcosa, parlare di meno, parlare di più, non so. Quindi sì, Sì, poi basta giusto. mettere sul tavolo una birra e sicuramente loro ci sono, Esatto. E lì quindi. parte l'amicizia, cioè, lì non si può vedere. Infatti dobbiamo introdurla questa roba. Il fatto è che una birra che viaggi dalla Toscana al Piemonte alla Germania la vedo un po' difficile. Dovremmo Lo fare so. poi un incontro più o meno a metà strada, in Monaco, che Austria. potrebbe essere un ottimo punto di mezzo. A Eh Monaco? sì, lì birra ce Ce n'è, è buona, sì, n'è. si può fare, si può fare. Dai, una volta facciamo una differita da lì. Se ci eravamo anticipati facevamo la puntata zero dall'Oktoberfest, immaginate Guarda. che Allora. inizio spumeggiante che sarebbe stato. Spumeggiante sicuro, non so come se saremo sopravvissuti, però. Spumeggiante molto alcolico direi. Esatto. Sarebbe stato facile anche poi risincronizzare le registrazioni, mi Sì. immagino. Beh, infatti, no, l'importante sarebbe stato in quel caso che gli utenti bevessero abbastanza birra quanto noi, quindi non hanno più bisogno di sincronizzare nulla, quindi a fantasia più o meno. Non abbiamo detto che il podcast sarà tendenzialmente mensile. Giusto, giusto. Vorremmo fare una trasmissione di un'oretta al mese, una cosa del genere. Poi vediamo se un'oretta è troppa e vi si annoia, oppure se un'oretta è troppo poca perché non riusciamo a approfondire. Ma tendenzialmente dovrebbe essere una cosa una volta al mese. Sì, infatti cominceremo dalla prossima volta, vediamo se anche con quello che abbiamo intenzione di dire, se ci stiamo coi tempi. Quindi sì. Diciamo che è Sì. sperimentale e i beta tester saranno gli ascoltatori. Esatto, saranno ampiamente ricompensati i primi tester. Soprattutto non ci possiamo dilungare più di un'oretta, visto che è la moglie di Mario, altrimenti userà dei mezzi per farlo fuori. Esatto, infatti, poi mi avete sulla coscienza per sempre, quindi colpa vostra. Ok, senti, direi ragazzi che abbiamo più o meno messo in tavola tutte le carte e mi sembra abbastanza chiaro più o meno cosa vogliamo fare, come lo vogliamo fare, quando lo vogliamo fare ancora non so. Vediamo quando uscirà questa puntata e poi daremo inizio alla trasmissione regolare. Quindi io spero dal mese prossimo che possiamo stare, di essere in trasmissioni regolari più o meno, se ce la facciamo, dai. Ma secondo me si può anche fare magari alla fine di questo mese. Vediamo un po' Sì. come la parte tecnica, soprattutto perché senza la parte tecnica di pubblicazione del feed non andiamo da nessuna parte. Infatti non possiamo fare quello che vogliamo e non lo avrà mai nessuno, quindi non. Esatto. Giusto. Bene, poi. Ok, alla fine vi sveleremo anche il nome completo se qualcuno è interessato a saperlo. A parte che lo vedrete sul feed, quando e se scaricherete la roba. E niente, ok, quindi che dire? Direi che possiamo per questa volta dare un po' di fiato agli ascoltatori, quei pochi coraggiosi che hanno intrapreso la nostra strada. Prima di lasciarvi, vi lascio un po' dei nostri contatti. E noi personalmente potete trovarci su Twitter, principalmente. Francesco lo trovate con il nickname Cesco_78, Max col nickname Fanciullim con la M alla fine, e a me mi trovate sempre su Twitter col nickname KidPixo. Il podcast ha questi nuovi contatti che sono quasi tutti funzionanti, quindi se ci fosse ancora qualche problema per l'episodio 0, pazientate, per l'episodio 1 sarà tutto funzionante. Quindi il sito lo trovate sotto geekcookies.github.io. La nostra mail è geekcookiespodcast@gmail.com e l'account Twitter è sempre col nickname come la mail, quindi @geekcookiespodcast. Per finire dobbiamo fare i credits della sigla. La sigla di apertura e di chiusura è tratta da Jamendo, la piattaforma di musica Creative Commons, in particolare dagli artisti Pornophonic dall'album 8-bit Lagerfeuer. Abbiamo estratto la canzone Sad Robots. In particolare la canzone è rilasciata sotto Creative Commons attributivo non commerciale di condivisione, quindi dobbiamo attribuirlo. Tutte queste informazioni le trovate nelle show notes di questo episodio, come in ogni episodio che verrà qui a venire. E che dite, salutiamo e li lasciamo A vederci alla prossima puntata. Va benissimo, buona serata, buongiorno, buon pomeriggio a seconda di quando ascolterete questo podcast da Francesco. E buona serata da Massimiliano. E buona serata a tutti anche da Mario. Ciao. Ciao. Ciao.